Giochiamo a fare la guerra? Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra? Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra? Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra? Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio! Siete tutti armati, vero? Sì, tutti. E allora seguitemi. Se verrà la guerra, Marcondi ronderò. Se verrà la guerra, Marcondi ronda. Sul mare, sulla terra, Marcondi ronderò. Sul mare, sulla terra, chi ci salverà? Ci salverà il soldato che non la vorrà. Ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà. La guerra è già scoppiata, Marcondi ronderò. La guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà? Ci aiuterà il buon Dio, Marcondi ronderò. Ci aiuterà il buon Dio, lui ci salverà. Buon Dio è già scappato dove non si sa. Buon Dio se n'è andato, chissà quando ritornerà. L'aeroplano vola, Marcondi ronderà. L'aeroplano vola, Marcondi ronda. Se getterà la bomba, Marcondi ronderò. Se getterà la bomba, chi ci salverà? Ci salva l'aviatore che non lo farà. Ci salva l'aviatore che la bomba getterà. La bomba è già caduta, Marcondi ronderò. La bomba è già caduta, chi la prenderà? La prenderanno tutti, Marcondi ronderà. Siamo belli, siamo brutti, Marcondi ronda. Siamo grandi o siamo piccini, li distruggerà. Siamo furbi o siamo cretini, li fulminerà. Ci sono troppe buche, Marcondi ronderà. Ci sono troppe buche, chi le riempirà? Non potremo più giocare, Marcondi ronderà. Non potremo più giocare, Marcondi ronda. E voi a divertirvi andate un po' più in là. Andate a divertirvi dove la guerra non ci sarà. La guerra è dappertutto, Marcondi ronderà. La terra è tutta a lutto, chi la consolerà? Ci penseranno gli uomini, le bestie e i fiori, i boschi e le stagioni con i mille colori. Di gente, bestie e fiori no, non ce n'è più, i venti si è rimasti noi e nulla più. Tutta nostra Marcondi ronderà, e faremo una grande ostra, Marcondi ronderà. Buonasera. Le conseguenze del disastro nella centrale nucleare di Chernobyl in Unione Sovietica concentrano quasi totalmente l'attenzione di tutto il mondo. Le autorità di Mosca confermano che, al contrario da quanto detto da più parti, l'incidente ha fatto solo 2 morti, mentre quasi 200 sono le persone ricoverate in ospedale. We'll be right back. questa notte fosse tutto ciò che ti rimane, e da mangiare non avessi neanche un po' di pane. Se la natura fosse solo un po' più cattiva, e il sole ti esplodesse in faccia appena fa mattina. Se gli animali cominciassero ad organizzarsi e lentamente progettassero di sterminarci, se non ci fosse alcun giudizio universale, in quale modo scenderesti il bene dal male? E quando l'ultimo supermercato sarà vuoto e la tecnologia ci servirà per fare un fuoco, e la musica sarà un ricordo e un mondo sordo. Questa è la canzone contro, contro la natura. Quella che davvero fa paura. È la croce che porti addosso un po' dal momento esatto in cui hai messo piede sulla terra. È voluto di che forse libero se, se ricordi ogni giorno che siamo sempre stati in guerra. L'universo è come te, ordine senza potere. Marzo 1989, la nave petroliera Exxon Valdez, di proprietà della Exxon Mobil, si incaglia nel sito di Prince William Sound, in Alaska, e dà origine a uno dei disastri ambientali più imponenti della nostra storia. Oltre 41 milioni di litri di greggio fuoriescono dallo scafo dell'imbarcazione. La Exxon Mobil è stata ritenuta colpevole di aver lasciato un capitano alcolizzato alla guida della petroliera. È vero che sul Mar Nero, sul Mare Nero, le rose fioriscono tre volte. Che le colonne doriche vanno in briciole e si sente parlare di distanze per andare ad Alessandria, d'Egitto, accompagna le reliquie del passato, impulsi religiosi dell'Occidente, accidenti. Le truppe schierate di fronte a un ordine, sparano i fucili, le prime file cadono a pioggia, il fumo si addensa al sudore. La parte sinistra guardando il porto e la vedetta. L'odore di polvere da sparo, sparso per quartieri. Stava male sull'aereo in aeroporto? No, ha detto che aveva il jet lag. Una persona si tocca il viso in media da 3 a 5 volte al minuto. Nel frattempo tocca maniglie, rubinetti e altre persone. Beth! Mamma! No, va in camera, tesoro! Perciò abbiamo un virus senza né protocollo terapeutico né vaccino finora. Hai avuto un malore stamattina, ti era già successo? Altri problemi di salute? No, allergie? No. Fino a ieri sera erano 32 casi. E purtroppo è morta. Certo, allora posso parlarle ora? Signor Emoff, sua moglie è morta. Ma di che cosa sta parlando? Calma. Che le è successo? Che cosa le è successo? Calma. È possibile che qualcuno voglia rendere la viaria un'arma? Non serve che lo faccia qualcuno. Ci pensano già gli uccelli. Ecco, guarda, si trasmette così. Dobbiamo solo sapere in quale direzione va. E il primo giorno erano 2 persone, poi 4 e poi 16. In 3 mesi saranno 1 miliardo. È a questo che andiamo incontro. E hanno convocato la Guardia Nazionale, sposteranno il presidente in un bunker. Sarà l'inferno. Vattene! Così la verità viene nascosta al mondo. Brucia i campioni, distruggi tutto. Pronto? Mi servono i nomi di tutti coloro che sono entrati in questa camera. È un'emergenza. Niente panico. Ti farò portare a casa. Anch'io ho una famiglia, dottor Cheever. Come tutti. Non toccare nessuno. Non parlare con nessuno. Sta lontano da tutti. Risalga in macchina! Non siamo malati! Si adatta a noi prima di quanto noi ci adattiamo a lui. Sta mutando. Sado, sado. Ego, blasfobia. Diciamo che nella nostra visione del mondo è facile pensare che la scienza abbia rimpiazzato Dio, ma alcune questioni filosofiche sono ancora molto spinose, come il libero arbitrio. È una questione che esiste da molto tempo, addirittura da prima di Aristotele. Anche Sant'Agostino, San Tommaso d'Aquino si chiedevano come si può essere liberi se Dio sa già in anticipo tutto quello che facciamo. Oggigiorno sappiamo che il mondo funziona secondo alcune leggi fisiche fondamentali che regolano il comportamento di ogni singolo oggetto nel mondo. Dunque, l'assoluta attendibilità di queste leggi permette grandi conquiste in campo tecnologico, ma anche l'uomo è in fondo un sistema fisico, no? Una complessa struttura di molecole di carbonio e soprattutto d'acqua. E il nostro comportamento non fa eccezione a queste leggi fisiche basilari. Quindi, in un simile quadro, che sia Dio a predisporre gli eventi sapendo già tutto ciò che faremo, o che siano queste leggi fisiche a governare tutto, non resta molto spazio per la libertà. Però non pensare neanche di ignorare la questione del libero arbitrio e dire «Oh, è soltanto un aneddoto storico da studiare all'università, è una domanda senza risposta, meglio lasciar perdere». Perché la questione continua a guardarti dritta negli occhi. Pensa all'individualità, a chi sei. Chi sei dipende soprattutto dalle libere scelte che fai. O il concetto di responsabilità. Tu sei ritenuto responsabile, giudicato colpevole o ammirato e rispettato solo per ciò che hai fatto di tua spontanea volontà. Quindi la questione continua a ripresentarsi e noi non abbiamo una soluzione. Sembra che tutte le tue decisioni siano una sciarada. Pensa a come avviene. C'è dell'attività elettrica nel tuo cervello, i neuroni si accendono, poi inviano un segnale al sistema nervoso. Questo segnale passa alle tue fibre muscolari che scattano e tu allora allunghi un braccio. In effetti sembra un tuo libero atto, ma ognuna di queste, ogni fase di questo processo è in realtà governata da leggi fisiche, chimiche, elettriche e così via. Oggi si crede che il Big Bang abbia determinato la situazione iniziale e che il resto della nostra storia, della storia umana, sia solo una sorta di reazione di particelle subatomiche in relazione a queste leggi fisiche di base. Noi crediamo di essere speciali, di avere una dignità speciale, ma questa convinzione adesso viene minacciata da questo nuovo scenario. Tu potresti dire, aspetta, è la meccanica quantistica? Io conosco la fisica moderna e so che non è proprio così, che in realtà è una teoria probabilistica, che è aperta, inesatta, non è deterministica. E questo ci permette di capire il libero arbitrio, ma considerare i dettagli non aiuta poi molto perché si tratta di piccolissime particelle quantistiche con un comportamento apparentemente casuale, deviano continuamente. Hanno un comportamento assurdo, nel senso che è imprevedibile e noi non riusciamo a capirlo basandoci su quanto è successo prima. È qualcosa che avviene all'improvviso, secondo un quadro probabilistico. Ma la nostra libertà è solo una questione di probabilità, una deviazione casuale in un sistema caotico. Sembra una soluzione peggiore, meglio essere una rotella di un enorme ingranaggio deterministico, fisico, che una deviazione casuale. Dunque, non possiamo ignorare il problema. Nella nostra visione del mondo dobbiamo trovare un posto alle persone, non ai corpi, ma alle persone. Ciò vuol dire cercare di risolvere il problema della libertà, trovare posto per la scelta e la responsabilità, cercare di capire l'individualità. Easy, pull out your heart to me.